Chissà che cosa avranno pensato 7 giorni fa i fedeli convenuti per la funzione domenicale in una chiesa alla periferia di Milano, quando il loro parroco, me l'ha raccontato una signora più avvezza di me a frequentare i luoghi di culto, quando il loro parroco al momento della questua li ha esortati a dare con particolare generosità, perché con quei soldi la parrocchia intendeva dotarsi, ad uso dei molti vecchietti che ne avevano tanto bisogno, di una nuova sedia elettrica. Una sedia elettrica? Sì, sì, immagino che i frequentatori occasionali e i nuovi venuti si siano chiesti con improvvisa preoccupazione dove gli anci ne erano finiti, mentre i frequentatori più assidui dell'attività parrocchiale, dopo il primo momento di sconcerto, avranno facilmente capito che con quel termine il degno ecclesiastico non alludeva ad altro che a uno strumento ortopedico mosso elettricamente per facilitare la deambulazione degli anziani handicappati. Volendo, sedia volendo. Elettrica. Cioè, sapevano che il loro pastore, benché forse un po' vago nel parlare, uomo di sentimenti mitissimi, intimamente convinto che l'applicazione dell'elettricità a una sedia non possa che farsi a fin di bene, cioè per alleviare le sofferenze e i disagi degli anziani e dei disabili, e non per liberarsi in via definitiva delle persone moleste mediante la deliberata applicazione di una scarica di 50 o 60 mila volt, pratica che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito più volte non essere né insolita né crudele, e che il popolo dello Stato di New York è ansiosissimo di reintrodurre nel proprio sistema penale, però alle parrocchie milanesi non si addice. D'altronde ammetterete anche voi che una sedia ortopedica mossa da un motorino elettrico è a tutti gli effetti una sedia elettrica, e come tale può e deve essere definita. È vero che il termine è normalmente impiegato per indicare tutt'altro apparato, però nessuno ci costringe ad adeguarci sempre e comunque agli usi linguistici correnti. Credo sia stato Benedetto Croce, credo, che in fatto di lingua aveva delle idee piuttosto strane, ma ogni tanto ci azzeccava. Deve essere stato lui a far notare come ogni singolo gesto linguistico è sempre in bivico tra adeguamento e innovazione, e che questa sostanziale ambiguità, oltre a rendere impossibile la scienza linguistica come comunemente si intende, cosa su cui siamo d'accordo tutti, anche se per altri motivi, rappresenta una ricchezza, non un inconveniente da cui dolersi, no? No, il problema, semmai, è un altro. E poco a che fare con l'ambiguità del linguaggio e le relative teorie, è un problema eminentemente pratico, un problema del giudizio da esprimere su chi in certe posizioni incorre in incidenti verbali di questo tipo. E in altre parole, cosa bisogna pensare di quel parroco? Bisogna pensare che è un sant'uomo, una delle rare persone così estranee alla nequizia dei tempi che di ogni termine ambiguo vedono soltanto il lato positivo, e quindi una persona sommamente adatta a occuparsi delle necessità spirituali del suo gregge, o un pasticcione della Madonna, incapace di usare le parole nel senso comunemente inteso e quindi suscettibile di impigliarsi in chissà quali immani confusioni dottrinali e amministrative, per cui le autorità episcopali farebbero benissimo a togliere immediatamente la cura d'anime prima che faccia altri danni. Di santi abbiamo tutti bisogno da un certo punto di vista, ma sappiamo tutti come nulla può essere più pernicioso di un sant'uomo in una posizione sbagliata. Ecco, lo stesso problema, in una dimensione se volete più mondana, mi tormenta da quando ho avuto occasione di assistere un paio di giorni fa a un'esibizione televisiva dell'onorevole Bertinotti, in cui il segretario politico del Partito della Rifondazione Comunista confermava al suo interlocutore, un po' imbarazzato ma non senza un'evidente punta di compiacimento, di essere assolutamente incapace di gestire qualsiasi somma di denaro, anzi di non sapere neanche compilare un assegno, tanto che spetta a sua moglie tutte le mattine affidargli quel po' di contanti che giudica indispensabile per le necessità della vita quotidiana. Ora, di segretari politici che affermano un'assoluta estraneità ai problemi amministrativi ne abbiamo visti tanti negli ultimi tempi, ma nessuno francamente l'aveva messa così sul piano personale. E poi agli altri non avevamo creduto, naturalmente, mentre Bertinotti nel suo imbarazzo era evidentemente sincero, e d'altronde non aveva nessun motivo per dire una cosa per l'altra, onde la necessità, per chi crede nell'opportunità di rafforzare nel paese quelle posizioni di sinistra di cui il Partito della Rifondazione Comunista è un bastione, la necessità di chiedersi se preferisce un segretario così estraneo alla logica del capitalismo da non volere neanche toccare la carta moneta, o non piuttosto un leader che di teorie finanziarie mastichi quel tanto che basta per saper firmare un assegno, che non è una brutta alternativa. Ecco, concludo. I problemi di giudizio sui singoli sono sempre un po' imbarazzanti, ma gli ascoltatori avveduti naturalmente si saranno resi conto che a dover essere giudicati nello specifico non sono né l'onorevole Bertinotti né il parroco dalla cui gaff siamo partiti. Il giudizio riguarda noi. Riguarda noi in quello e per quello che vogliamo e ci aspettiamo dagli altri, soprattutto da quelli cui riconosciamo dei ruoli e delle responsabilità nella nostra vita. Io che non frequento le chiese e che da tantissimo tempo non frequento neanche i partiti, io mi sono interrogato, ho guardato in me stesso e confesso di preferire chi chiama le cose in modo che gli altri capiscano subito di che cosa si tratta e di non ignorare, e preferisco chi non ignora o non dichiara di ignorare, sia pure a livello simbolico, i meccanismi del sistema a cui siamo tutti convinti di doverci opporre. Suppongo che sarà per questo che mi considero un estremista.